cartellone di Elisabetta Fiorito. Un giorno Dio creò la terra e vide che era una cosa bella. Poi creò la natura e vide che era una cosa bella. Poi creò gli animali e vide che era una cosa bella. Poi creò l'uomo e vide che era una cosa bella. Poi creò la donna e disse: si truccherà. Buongiorno, buongiorno, con questa battuta un po' contro le donne iniziamo cartellone di oggi, perché abbiamo ospite con noi Raul Cremona, in scena al Teatro Ciak di Milano fino al 28 marzo. Buongiorno Raul. Ciao a tutti, come va? Bene, bene. Allora, il mago più amato di tutte le edizioni di Zelig, quella sì. Ti abbiamo sentito in Omen, uno dei tuoi personaggi. Ma... odio anch'io, tra l'altro. Ah, lo odi anche tu? No, perché insomma, la donna che si truccherà è più brutto l'uomo della donna, no? Generalmente... no, perché c'è da lavorare molto, capisci? Quella è la stessa. Ah, grazie. Sempre più misogino, sempre più misogino. Senti, ma tu fai anche un altro personaggio che si chiama Silvano il mago di Milano, quindi... Ah, evidente... signori, simsalamin, questo è Silvano Mago di Milano. Silvano... omaggio, sì. Allora, Silvano Mago di Milano, perché presumo tu sia milanese, ovviamente. Sì, diciamo, è la risposta, diciamo, milanese a Silvano in carne e ossa, insomma. Che ma... poi lui, tra l'altro, è di Mestre, quindi è di Venezia. E quindi insomma siamo tutti e due nordici, il mio però è milanese, proprio meneghino puro sangue. Ah, quindi insomma il lombardo-veneto si sfida, sì. Si sfida a duello. Ma il mago di Milano, quali sarebbero i miracoli eventualmente che potrebbe compiere a Milano? Allora, te lo dico con le mie parole o con le parole di Silvano? Ah, guarda, per me... con le parole di Silvano. Io direi meglio. Allora, attenzione, ascoltate attentamente, vuoi sapere una ricetta per Milano, che cosa si può fare? Purtroppo non ho nulla, perché io faccio giochi di prestigio e non miracoli. Ah, è vero, perché è vero, c'era il famoso simsalabim che lui diceva sempre: io non sono un mago, ma sono un illusionista. Un illusionista, no? Sì. Un prestidiri, giri, miri, zirizzatore. Sì, vero. Da piccolo lui diceva sempre, ci teneva, attenzione, si dice prestidigitazione. A me è rimasto proprio inculcato talmente tanto che quando ho cominciato a imitarlo, mi dice, ma si dice prestidiri, giri, miri, cioè andavo avanti per le lunghe e mi divertivo. Senti, un altro personaggio della nostra letteratura, diciamo, è un profugo cacciato da Venezia, è stato il romanzo che ci hanno fatto studiare a forza, perché diciamo che l'autore era bravo nella poesia ma nel romanzo un po' meno. L'autore era Ugo Foscolo e lui era Jacopo Ortis. Si abbia l'ardire. Perché hai scelto Jacopo Ortis? Ma allora, Jacopo Ortis diventa, all'inizio era, si chiamava Tancredi, questo qua è un personaggio che vuole fare l'attore, ma poi alla fine racconta delle barzellettacce, è ignorante, ma però spaccia cultura, ogni tanto delle cose investe i suoi spettatori dicendo come appunto Angelo Testoni e Memo Benassi, che tu ben conosci. La gente non sa neanche chi sono questi attori, però lui ha detto il parolone grosso, magari lo dice a Bisio, Bisio dice come ha detto, lui dice bravissimo, cioè camuffa sempre come un po' come gli attori sono delle persone che hanno molta cultura però nello specifico, poi magari sono costretti a fare Shakespeare invece che poi la grande influenza di Gassman, che era il maestro di questi tromboni, nel gigionarli era veramente un maestro. Poi ad un certo punto, non so, io dici, vorrei leggere se possibile qualche lettera di Jacopo Ortis, una cosa leggera. Però alla fine tutti mi hanno chiamato Jacopo Ortis, non so per quale motivo, perché il pubblico fa molto in fretta a riassumere, no? Se tu ti chiami, quello lì con la pancia, quello lì, io quando dicevo vorrei leggere la lettera di Jacopo Ortis, Jacopo Ortis, nomi facili da ricordarsi perché sono nell'immaginario, a volte ti vengono appiccicati e un personaggio nasce anche così. No, anche perché Jacopo Ortis comunque ce ne dà di spunti. Io ricordo che a un certo punto nel romanzo lui vaga urlando nei boschi e tipo il contadino lo prende per pazzo e noi abbiamo simpatizzato quando stavamo a scuola per il contadino, ecco, non si poteva dire. In quei momenti lì di scuola io fuggivo volentieri, ero un pessimo, diciamo, studente, quindi... una grande preparazione umanistica, quindi per cui... Noi, capito, abbiamo parteggiato. Allora, vogliamo sentire di nuovo che cosa ha da dirci Omen? Il problema di oggi è un problema piccolo. Sì. Il cervello della donna. Il cervello della donna è come la sua borsetta, pieno di cose inutili. Fatti un bel trapiantino, no? Che oggi si fa anche ambulatorialmente. C'è il day hospital, no? Il problema chiaramente è rigetto, in quanto il cervello della donna è un corpo estraneo. Giusto? Giusto! Ecco, io sento reazioni molto maschili. Se c'è qualche donna che non è d'accordo. Ah, se c'è qualche donna che non è d'accordo, altrimenti l'uomo somatizza. Somatizza, vabbè. Io la difendo, potete restare. La statua della libertà è donna perché avevamo bisogno di una testa vuota per farci dentro un ristorante. Ma non è vero. Non toccare. Insomma, che cosa hanno fatto le donne ad Omen perché lui sia così arrabbiato con il nostro sesso, il gentil sesso? Omen è un pezzo degli anni 70, praticamente è l'uomo che nei bar, quando ero piccolino, teneva banco dicendo le sue verità, urlandole, e era praticamente, ce l'aveva tutti, ce l'aveva con i diversi, ce l'aveva con la gente di colore, soprattutto con le donne. Per lui la donna era un affronto, l'emancipazione della donna per Omen è un affronto assoluto, cioè la donna emancipata, la donna che va in macchina, ecco, per cui siamo negli anni 70, le donne che vanno in macchina per lui erano veramente uno smacco. Io mi ricordo che ancora negli anni 60 da piccolo le donne che fumavano per strada venivano indicate male, quindi figurati com'era a Milano una volta. E a Roma non ti dico, A Roma era uguale, sicuramente. La donna che fumava a mezzo della strada addirittura veniva insultata, negli anni 50-60. Chi faceva una cosa del genere, chi si prendeva delle libertà simili, erano donne di malaffare, questa era nell'accezione. Poi dopo con l'emancipazione, però quel tipo di uomo che l'immagino io che torna da lavoro, che ha lavorato, che ha faticato, che per lui c'è una famiglia patriarcale, lui comanda, lui fa, lui dispone, lui, per lui la donna emancipata è veramente una cosa da combattere, per cui si lasciava andare a quei discorsi da bar nei quali raccoglieva dei discepoli e inventava questi monologhi che attiravano l'attenzione di tutti, col consenso di tutti. Tra l'altro il fatto che faccia ridere ancora così tanto perché è ancora forte questo maschilismo, e poi alla fine quando tornava a casa chi comandava era la moglie, un po' il fatto. Come sempre, meno male. Diceva, corri, e lui diceva, sì tesoro, vengo a casa subito, sì, prendo il pane, il biove, il francesino, il ferrarese, un etto di crudo, un etto di cotto, prendo gli assorbenti con le ali, volo tesoro. Ah, ecco, allora, Ocus Molto Pocus, questo è il tuo spettacolo che è in scena in questi giorni al Teatro Ciak di Milano, sì, fino al 28 marzo, è un one man show di 2 ore, sì, di quanto? Quanto stai sul palco? Cerchiamo di fare sempre un po' meno, perché veramente... Anche perché dopo... Così tanto, 3 ore... Dura, tipo Bruce Springsteen. È dura, indubbiamente, ma poi alla fine mi viene da dire, vabbè, ma perché tutta questa fatica? Facciamo di meno, cerchiamo di concentrarsi, lasciare... Però succede che certe volte in certe piazze la gente vuole un bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, alla fine mi faccio prendere male, diventano spettacoli da 2 ore e mezza, 3. Il spettacolo dura 1 ora e mezza, poi c'è qualche concessione ai bis, è uno spettacolo costruito su di me, sulla mia voglia di fare il mago, di giocare, di scherzare come quando da piccolo aprivo. Praticamente mi considero quel bambino che a 10 anni ha trovato la scatola dei giochi di presidio sotto l'albero di Natale, e la roba che c'è dentro quella scatola ce l'ho ancora lì sui tavoli, continuo a giocarci, continuo a rimodernare la tecnica, magari cambio l'oggetto, ma è sempre lo stesso gioco che stava nella scatola. Quindi è una cosa molto molto particolare e soprattutto di grande soddisfazione. Ma non ti manca un po' Claudio Bisio? Beh, devo dire che con Claudio si lavora molto bene. Poi il discorso è, con gli anni, 10 anni di Zelig, la cosa più divertente è rompere la crosta della ripetizione, cioè avere il pezzo preparato, uscire, e si sente forte il desiderio di, diventando vecchi, chiaramente, di divertirsi. Per cui il divertimento presume improvvisazione, presume rifiutare tutte le parti scritte, andare dentro anche degli errori volutamente, fanno di tutto anche per farmi sbagliare, per poter far generare dall'errore situazioni coinvolgenti, come l'altra volta che ho sbagliato una battuta, che ho sostituito una parola ad un'altra, la battuta non aveva più senso, Claudio ha cominciato a prendermi in giro davanti a 3.000 persone, a che mi devo difendere, lì nasce di tutto. Però sono e di più. Di più. Di più. Senti Raul, allora, Ocus Molto Pocus, lo ricordiamo, in scena al Teatro Ciak fino al 28 marzo, poi Roma, Modena e Napoli. Ciao Raul! Ciao a tutti e vi aspetto numerosi. Cartellone. Dove le hai nascoste? Non parli! Stop! Non pulirti lì, fallo sulla tua divisa, così sembri ferito anche tu. Fai bene a seguire i suoi consigli. Se non le facevi da autista non avevi il culo di beccarmi. Intanto ti ho preso! Sì, tu e tutta la tua audace unità di combattimento. Attore! Niente violenza, deve essere curato. Domani! Quando raggiungiamo il comando ci penseranno loro. Ha bisogno di cure adesso. Ti interessa che parli o che muoia? Dove c'era la scuola? Stanno allestendo un centro di primo soccorso. Forse è già arrivato qualcuno. Agnetà! E quello che avete sentito è un brano tratto da Semi d'acciaio, uno spettacolo che fa parte di un progetto articolato su un tema abbastanza importante, quello delle mine anti-uomo, per la regia di Leonardo Petrillo. Uno spettacolo con Paola Pitagora, Massimo Wertmüller e Nadia Kibbutt, che è praticamente itinerante nella città di Roma, dal Teatro Quarticciolo fino a domenica, poi al Teatro Tor Bella Monaca da martedì 23 al venerdì 26, al Teatro India da domenica 28 a martedì 30 marzo. Buongiorno Massimo Wertmüller. Buongiorno a voi. Allora, un tema molto molto drammatico per un attore come te, che un pochino è più conosciuto sul fronte comico. Ma io ti ringrazio, perché francamente mi sono perso per strada pure io a studiare tutto quello che sono riuscito a fare, ringraziando in Dio, nel senso che il mio modo di essere attore, per fortuna, ha toccato vari fronti, per cui è vero anche che ultimamente proprio avevo toccato questo argomento della memoria, per esempio, con uno spettacolo, e in questo parente, no, di quest'altro sulle mine, che ricordava di non dimenticare mai appunto certi orrori per non ripeterli, e pare che l'uomo sia fatto apposta. Poi invece in mezzo ci avevo infilato questo spettacolo divertente, brillante, I dolori del giovane Wertmüller, e adesso sono tornato a un tema, diciamo, sociale. Questo cerca di essere un teatro di impegno civile, questo che noi facciamo, che ha un senso giusto anche proprio per le scuole, che ha il suo spettatore ideale, per esempio giovedì mattina il 18 abbiamo avuto di mattina la nostra prima proprio, non sempre accade di fare una prima alle 10 di mattina, per un pubblico appunto di liceali, ed è stato un impatto insomma sorprendente per certi versi, perché io ricordo che persino io, che poi ho amato il teatro, andavo a teatro non certo con lo stato d'animo sempre giusto, insomma certe volte per fare il guastatore, no, per fare, e vedere che loro sono entrati con quello stato d'animo in quella maniera lì e poi sono stati presi per mano e portati in questo argomento così delicato, insomma è già stato un successo dello spettacolo. Allora, ricordiamo invece, in un ruolo drammatico, perché un attore è tutto drammatico e comico, anzi è vero quando riesce a fare tutto, Paola Pitagora, Massimo Wertmüller, Nadia Kibbutt, protagonisti di Semi d'acciaio, uno spettacolo su un progetto sul tema delle mine anti-uomo, prima al Teatro Quarticciolo, poi al Teatro Tor Bella Monaca, poi al Teatro India di Roma, ovviamente. Grazie Massimo. Grazie a voi, Anche noi abbiamo le nostre baby gangs, anche noi abbiamo il nostro Bronx, è una strada ma ce l'abbiamo. Ci abbiamo costruito il muro intorno, sì, il muro di segregazione culturale, un muro altissimo, come quello di Berlino, lunghissimo, come quello di Gaza, un muro con le torrette, il filo spinato, i mitra spianati, 4 fogli di lamiera, 4. E poi abbiamo smantellato, cancellato tutto, ci abbiamo fatto il concertino quel tanto per lavarci la coscienza, come a voler dire che noi con Vianelli non c'entravamo niente, che ci è cresciuto come una spina nel fianco, una specie di metastasi urbana da curare con un'energica infusione di chemiosicurezza. Ma se in questi giorni ci torni in Vianelli, ci trovi Aziz, Marek, Tarek, Ahmed, Mohammed, tutti con un cartello. Ci siamo trasferiti 70 metri più avanti, nel mini Bronx di Via Manara, e via, altro giro, altra corsa, i parchi. E come si vive nel nord-est, nel mitico nord-est? Insomma, si vive bene, ma si vive anche male, come ci spiega questo spettacolo un po' di denuncia, un po' graffiante. North by East, Teatro Spazio Bixio Vicenza, due protagonisti sul palcoscenico, Marco Tizianel e Silvio Barbiero. Inoltre, uno spettacolo itinerante, stasera si parte da Vicenza allo Spazio Bixio, per poi andare a Padova il 23 marzo, il 25 marzo a Trento, il 27, il 28 a Foggia, il 29 a Matera, quindi anche in tutta Italia. Marco Tizianel, buongiorno. Ciao. Che cosa volete denunciare? North by East, prima di tutto, che cosa significa? Ma North Beast è un gioco di parole fra North East, Nord-Est, e la B davanti che diventa Beast, quindi bestia del Nord, in qualche maniera. E niente, noi semplicemente, a parte che non abbiamo la velleità di denunciare, di voler fare delle denunce facili, anche insomma un po' banali, semplicemente volevamo, come dire, essere testimoni di una realtà che viviamo ogni giorno, la realtà del mitico Nord-Est, dove appunto allo scintillare delle vetrine, delle macchinone, dei SUV, delle pellicce, del mito del lavoro, dei skate e queste cose, e poi c'è una purtroppo una disperazione umana, una solitudine, una fame d'amore che è allucinante. E noi abbiamo pensato di mettere in scena questo tipo di inquinamento, perché oltre all'inquinamento ambientale, di cui la pianura padana, Padova, insomma, soffre moltissimo, c'è anche un inquinamento umano che è dato da dei valori completamente sbagliati, secondo noi, e che ci rendono profondamente infelici, tra le altre cose, e profondamente soli. Questa solitudine, questa infelicità si riflette anche nei due personaggi, nel mio e in quello di Silvio, che sono agli antipodi, partono all'inizio dello spettacolo che sono profondamente diversi, profondamente in antipodi. Silvio è il prototipo del funzionario di banca, del manager rampante, cinico, che non conosce nessun ideale, appunto, se non appunto il razzismo, no? Si parla del ghetto di Padova, abbiamo sentito all'inizio. Si parla di molte cose, parliamo di prostituzione, parliamo di immigrazione, di droga, di omosessualità, parliamo di disagio sociale, e soprattutto, secondo me, Norbeast è uno spettacolo sulla fame d'amore che muove tutti noi disperatamente, perché dietro appunto lo scintillare delle vetrine, i telefonini ultima generazione, i SUV, ci sono delle persone profondamente sole che hanno un bisogno immenso, secondo me, di contatto umano. Questo è... Sentiamo Marco un attimo un altro brano dello spettacolo. Padana Wally si dispiega ai nostri occhi come amante impudica si offre oscena nelle sue prospettive, membra di capannoni e campi di mais e capannoni e campi di mais e capannoni e campi di mais, capannoni e campi di mais, capannoni e campi di mais. Ogni tanto una casetta giusto a fianco dell'autostrada, chi cazzo ci vive là? Ignifix S.P.A. Rodomec Installazioni Aldo Geometra Levorin. Beh, insomma, abbiamo sentito un mondo fatto di tangenziali, capannoni industriali, aperitivi in centro, trasporti pubblici, immigrazione e razzismo, spaccio e consumi vari, insomma, di tutto e di più. Marco, tu dici che non è uno spettacolo di denuncia? A me sembra di sì, eh. Ma è denuncia nel senso che il nostro intento è stato quello semplicemente di essere testimoni, con occhi molto grandi e trasparenti, senza, come dire, urlare quella supposta verità che non abbiamo assolutamente, insomma, in mano. Ricordiamo, North B East, Teatro Spazio Bixio di Vicenza, e si inizia stasera per una tournée che poi andrà a Padova, a Trento, a Foggia e a Matera. Grazie Marco. Grazie a te, arrivederci, grazie. Tutte le regioni pretendono di essere le uniche a possedere la verità. Perciò se anche una fosse vera, tutte le altre sarebbero false. Per cui per via logica noi sappiamo che sono false tutte le religioni meno una. Ce n'è qualcuna che allora può esibire titoli maggiori delle altre? Ogni religione adduce argomenti convincenti nel rifiutare la pretesa di verità delle altre. Ergo, la totalità di tutte queste ragioni è la falsità di tutte le religioni. Ma chi non trovasse l'argomento risolutivo dovrà comunque riconoscere che questo Dio è un Dio che gioca saticamente con le sue creature a rendere questa verità straordinariamente enigmatica. E in realtà noi possiamo aggiungere a questa prova logico-ontologica della non esistenza di Dio una mole inesauribile di spiegazioni storiche, antropologiche, eccetera, che illuminano, al di là di ogni ragionevole dubbio, origini, sviluppi, contraddizioni di ciascuna delle religioni come prodotto umano. Siamo al Teatro dell'Orologio, il teatro alternativo di Roma, dove si sperimentano nuovi spettacoli, dove fino al 28 marzo va in scena L'illusione di Dio. La regia è di Adriana Martino, che è qui con noi. Perché questo titolo e perché questa ricerca? Dunque, il titolo si rifà ad un libro di Hopkins che appunto che si chiama così L'illusione di Dio, ma è praticamente è un dibattito filosofico sull'esistenza di Dio. Quindi capisco che è un tema così molto inconsueto per essere portato in teatro, ma attraverso testi tratti da filosofo come Gianni Vattimo, Michel Onfray, Floris d'Arcais, Scalfari e poi basandosi anche su diciamo dei pensatori storici tipo Spinoza, Nietzsche, Dostoevsky. Ho praticamente creato così un dibattito molto appassionato, molto è molto anche senza quasi feroce fra tre pensatori che la pensano praticamente in maniera contrapposta. E Vattimo per esempio è un uomo credente, Floris d'Arcais è un materialista marxista, Onfray è un materialista che si rifà diciamo all'illuminismo. Quindi io praticamente mi sono rifatta ad un filone che proviene dall'illuminismo per arrivare fino ai giorni nostri e per dibattere questo problema che poi incombe molto nella coscienza di tutti gli esseri umani, che è il senso del sacro e il senso della religione. La verginità di Maria, un dogma fra i più surreali. Una donna che concepisce un figlio senza intervento umano non deve essersi trattato di nascita virginale, visto che questa non richiede nessuna fecondazione. E neppure della fecondazione eterologa da parte dello Spirito Santo di un ovulo di Maria, perché altrimenti Gesù sarebbe soltanto un semidio. Come Ercole, figlio di Zeus e Alcmena? No, il concepimento di Gesù deve essere avvenuto per l'impianto di un ovulo già fecondato. Dunque, non solo Giuseppe è un padre putativo, ma Maria è una madre surrogata che si sarebbe limitata a dare l'utero in affitto. Cartellone. E adesso andiamo al Teatro Quirino, dove da martedì si apre una settimana molto speciale, perché il Teatro Quirino dà la possibilità a uno spazio autogestito, vale a dire ci saranno molti spettacoli che si alternano ogni sera e si potrà quindi approfittare di una settimana un po' particolare, dove non c'è il solito cartellone, tanto per parafrasare il titolo della nostra trasmissione, ma ci sono tanti eventi. Buongiorno a Marianella Bargilli, che sarà una delle protagoniste con uno spettacolo che noi già abbiamo presentato che si chiama Aleccalè. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, sono io, Aleccalè. Sei tu, eri emigrata in Lombardia e ritorni a Roma. Sono tornata a Roma domenica dopo la tournée e un sacco di notizie, perché poi lo spettacolo sta sbarcando in Francia, quindi sono molto molto soddisfatta e contenta. Spero riusciremo a fare anche una serata durante questa rassegna, perché è uno spettacolo fresco, giovane, divertente, insomma, curioso. Autogestito è una rassegna di teatro indipendente, giovane, curioso, civile, così l'abbiamo definito, di compagnie meritevoli di avere una vetrina, in questo caso prestigiosa come il Quirino, che si autogestiscono. C'è stata una selezione, noi abbiamo aperto dopo la conferenza stampa l'anno scorso un bando, una selezione di video, di lavori, eccetera, e abbiamo costituito questa rassegna, quest'anno la prima edizione. È un bel susseguirsi di gruppi che hanno voglia di mostrarsi, di avere lo spazio giusto, di farsi vedere. C'è uno spirito molto positivo, un po' fresco, un po' diverso. È un'iniziativa che abbiamo preso proprio per dare lo spazio ai giovani, alle possibilità di farsi vedere ora come ora, visto che il teatro è sempre più complicato poterlo fare, soprattutto nelle grandi città. E quindi è un modo anche per non ripassare solo i classici a teatro, ma scoprire nuovi talenti. il 23... nuovi testi. Nuovi testi, nuovi autori. Allora abbiamo, per esempio, Dignità autonome di prostituzione il 23 e il 24 marzo, un testo di Luciano Melchionna. Party Time, il linguaggio della montagna, vabbè, di un classico Harold Pinter, di un autore sconosciuto, direi. No? Questo però è stato messo in scena da un gruppo, per questo è interessante, di giovani studenti universitari calabresi. Ecco, e questo quindi è molto importante. Pinter in Calabria è interessante come esperimento da vedere. Abbiamo questo Alecalé, come abbiamo detto, l'irresistibile ascesa di una squadra di dilettanti fino alla Coppa di Francia, con te come protagonista, un monologo e la regia di Emanuela Giordano, quindi un testo nuovo. E poi abbiamo Hannah e Mary, che ci interessa molto perché è un'amicizia ordinaria fra due donne straordinarie, di Silvia Zoffoli, giusto? Sì. Brava. E quindi è un modo per confrontarsi di due donne. Quindi il 27 marzo un ciné dedicato a Rita Atria, scritto e diretto da Pietra Selva. Vedo molte donne comunque. Sul confine poi il 29 marzo di Gabriele Di Luca, il Misantropo di Molière, però mi ha detto appunto con una tradizione... scena della compagnia Gank, che sono insieme al Teatro Stabile di Genova, la nuova realtà, diciamo, genovese, molto bravi, sono bravissimi. E poi sono tutti bravi. Per finire con Cianciana, il 31 marzo, di Angelo Abela, Marco Pisano e Eugenio Vaccaro. Quindi sono o nuovi autori, Marianella, oppure classici rivisitati in maniera particolare? I nuovi autori, ci sono due o tre spettacoli che parlano di mafia ed è interessante perché risultano nella settimana dedicata appunto alla mafia e questo è molto interessante come impegno civile. Anna e Mary, un testo che parla di un'amicizia tra ebrei, insomma c'è anche uno spessore da questo punto di vista culturale, anche informativo, insomma sappiamo che il teatro deve comunque essere questo in un certo senso, no? Deve darci un'informazione, deve darci cultura. Quello che speriamo di raggiungere attraverso questa iniziativa è mettere insieme tutti questi fattori e far diventare una cosa fresca, una cosa giovane, e dare la possibilità alle nuove realtà di potersi esprimere. Qui ci tengo moltissimo a sottolinearlo perché è veramente lo spirito con cui lo stiamo facendo e con cui speriamo che la gente venga a vedersi autogestito, proprio per scoprire le nuove realtà del teatro italiano, le nuove leve, i nuovi talenti, i nuovi testi. I nuovi testi. Di un tempo però, non ti sto parlando di sperimentazione. No, ma... È un altro discorso. No, ma io ti volevo interrompere perché... mi è arrivata una notizia flash che ci sono dei dati particolarmente entusiasmanti sul Teatro Quirino di Roma. Sì, siamo il primo teatro in Italia, come dato proprio di numero di incasso e di gente che viene a teatro, questi sono i dati Agis, e il nostro spettacolo, Il Gioco delle Parti, è il primo spettacolo di prosa. Soprattutto per quanto riguarda il Quirino è un grandissimo risultato perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo piace alla gente. E non solo di un discorso di programmazione, ma anche di innovazione. Abbiamo aperto un ristorante, la biblioteca, insomma, tutto quello che sta girando intorno al Quirino, la gente lo ha apprezzato molto e devo dire che siamo molto soddisfatti. Vuol dire che il teatro, se ci si lavora, risponde. La gente risponde. Allora, abbiamo sentito Marianella Bargilli, che è l'organizzatrice dello spazio autogestito da martedì prossimo al Teatro Quirino di Roma. Tutte le sere uno spettacolo diverso per una settimana. Ciao Marianella. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Vi aspetto. Ciao. E adesso andiamo a Bologna, sì, perché entriamo nell'antroposfera, nuove forme di vita, una rassegna sperimentale di arte e scienza che c'è praticamente nella città, nel capoluogo emiliano, fino al 21 marzo. E a curare questa manifestazione, che si chiama La scienza in piazza, l'arte di vedere, il piacere di capire, è Marino Golinelli. Buongiorno Marino Golinelli. Buongiorno. Allora, di che cosa si tratta? È una quinta edizione addirittura. La quinta edizione, La scienza in piazza, vuol portare in modo anche azione interattiva i giovani delle scuole, gli adulti, la società, perché la scienza in piazza è una manifestazione che riguarda la divulgazione della cultura scientifica. Sottolineo la parola cultura perché questo ci deve dare una visione unitaria dei problemi culturali che sono alla base del futuro delle generazioni dei giovani, del futuro per il futuro lavoro in un mondo globale che cambia. Noi non dobbiamo avere paura di questo mondo che cambia e la rassegna sperimentale Antroposfera, nuove forme di vita, sta a dimostrare come l'uomo, la natura, gli animali, tutti noi siamo coinvolti, quindi non solo biosfera ma antroposfera, quindi è una visione unitaria del futuro per insegnare, per dire a tutti non dobbiamo avere paura di un futuro se noi siamo culturalmente preparati per affrontare come persona, come organizzazioni libere e democratiche il futuro anche del lavoro, il lavoro di noi stessi. Questo è il compito che la Fondazione, quindi con la Scienza in Piazza e con le varie altre iniziative che rivolte verso le scuole, verso programmi anche nazionali, noi portiamo avanti proprio un problema, un progetto culturale per dare un supporto al nostro paese, alla società, all'Italia, per avere un qualche cosa di più dentro di noi per affrontare, ripeto, il paure senza futuro. Tutti i weekend, ma anche tutti i giorni a Bologna fino a maggio, a Palazzo Rienzo e alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Grazie Golinelli. E adesso andiamo a Roma, in un momento particolare in cui la città fu veramente il centro del mondo, ma non è durante l'Impero Romano, bensì un pochino più avanti, dal Rinascimento al Barocco. Per scoprire questo momento storico, ogni sabato e ogni domenica dal 20 marzo, quindi da oggi fino al 25 aprile, si terranno delle lezioni di storia dell'arte, racconti di storia dell'arte. Il primo a tenere una lezione al Museo Centrale Monte Martini questa sera è Sergio Guarino, che si occupa di Masaccio e Masolino, due modi di interpretare il Rinascimento. Allora noi chiediamo, ma insomma c'è stato questo momento a Roma particolare, che cosa emerge in questa città? Roma è un museo essa stessa, quindi ci sarebbe quasi bisogno di raccontarla. In particolare lo spirito di questi incontri è di far vedere come Roma rinasce, no? Il concetto stesso di rinascimento è legato alla città di Roma, rinasce dopo un periodo più scuro, più triste, più povero soprattutto, povero di mezzi, povero di soldi e povero di idee, caratteristica del 300, perché i papi se ne erano andati da Roma, erano andati da Avignone, Roma era rimasta deserta e Roma riscopre se stessa e la propria identità culturale proprio negli anni 20 del 400, quando un grande papa, Martino V Colonna, quindi appartenente a una storica famiglia romana, torna a Roma, è il rientro definitivo dei papi a Roma e ricomincia la storia bellissima della città, una città che all'epoca si considerava desolata, abbandonata, richiusa su se stessa. E c'è il nuovo spirito che pervade non soltanto Roma, ma Firenze e tutta l'Italia, e che trova, come dire, il suo eroe simbolico nell'immaginario collettivo già dell'epoca e soprattutto ai giorni nostri in questo meraviglioso pittore che è stato Tommaso di Sergiovanni, detto Masaccio. Allora ricordiamo quindi che le lezioni sono molte, si parte da Masaccio e Masolino, due modi di interpretare il Rinascimento, poi si passa a Pier della Francesca, la perfezione della forma, e poi Botticelli e la filosofia neoplatonica, le arti e l'Accademia di Marsiglio Ficino in Firenze. Infine, per arrivare chiaramente a Gian Lorenzo Bernini, l'arte dell'emozione, e tutti i weekend a Roma fino al 25 aprile, racconti di storia dell'arte. Cartellone. Un viaggio che attraverserà tutto il 2010, quello per celebrare i 125 anni del Resto del Carlino, il mitico giornale di Bologna. Allora, per l'occasione, anche una mostra itinerante intitolata Il Resto del Carlino, 45.000 notti passate a scrivere la storia, allestita alla biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, che toccherà 27 città dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Adriana Fracchia ha intervistato Gabriella Castelli, che ha curato il progetto della mostra. La mostra sui 125 anni del Carlino è un tentativo, ovviamente lavoriamo con una pagina per anno e quindi non può essere esaustivo, però di leggere questi 125 anni di storia attraverso una carrellata di sensazioni e quindi di fatti che sono avvenuti, ma soprattutto di come si è evoluta, se vogliamo, sia la storia del giornalismo, quindi non notizie che non sono state prese all'epoca e che adesso hanno una rivalutazione o ha delle implicazioni per il futuro particolarmente interessanti, oppure notizie che erano sensazionali nel momento in cui i fatti succedevano, che oggi non ci fanno particolare effetto. La caratteristica di questa mostra è una caratteristica molto simile al cuore dello stesso giornale. Il tentativo del giornale del Carlino è quello di essere alla portata di tutti i lettori. La mostra è divisa in decadi e viene introdotta proprio per la tipologia di questo giornale, che è sempre stato molto, molto chiaro, molto vicino ai suoi lettori. Viene introdotta da alcune note storiche che daranno la possibilità a tutti di inquadrare il periodo e quindi di avere un'indicazione precisa su qual era il contesto in cui si muovevano gli eventi che abbiamo selezionato. In più, in aggiunta a questa, c'è una linea temporale molto sintetica, divisa da una parte gli eventi internazionali di grande rilievo e dall'altra parte gli eventi nazionali, con un occhio evidente a quella che era anche la cronaca locale. Questo è ovviamente necessario perché il giornale nasce come un giornale piccolo all'epoca, addirittura nel formato, e quindi con una grande caratterizzazione sul territorio, ed è un'anima che mantiene anche quando apre via via le varie redazioni locali, ed è il motivo della volontà di portare la mostra in tutte le città che hanno una redazione di cronaca locale, in Emilia Romagna, nelle Marche e Rovigo, e arricchire la mostra di volta in volta con un nucleo centrale che sarà dedicata proprio alla redazione locale ospite. Ecco, quindi la mostra itinerante, e quante saranno le tappe in tutto? Oltre Bologna sono 27. Temporalmente durerà fino? Tutto l'anno, con una permanenza nelle nostre città che ci ospiteranno, normalmente di 2-3 settimane, con un'interazione continua e uno scambio di testimoni, una sorta di staffetta, se vogliamo usare questo termine sportivo. E questo sarà il giro di questa mostra che, come dico, andrà quasi ovunque, proprio nel cuore della città, con l'intenzione di mantenere fede alla sua politica editoriale, che è proprio quella di toccare il cuore della gente. Il Resto del Carlino è sempre stato il giornale di riferimento dei cittadini di Bologna, un bolognese doc e senz'altro il regista Pupi Avati. In molti suoi film si vedono i protagonisti che vanno a comprare il mitico giornale e urlano all'edicolante Il Resto del Carlino. Adriana Fracchia ha intervistato Pupi Avati. Il giornale, hai comprato il giornale, e quello è il riferimento, è stato il riferimento di tutta la città, di tutti noi fin da ragazzi, specialmente quando io, essendo jazzista e quindi esibendoci nei concerti, la sera dalla fine del concerto ci precipitavamo alla redazione del giornale con ancora le rotative, non ancora in moto, perché allora i giornalisti facevano vita notturna, chiudevano i giornali nelle ore tarde, e andavamo da questo giornalista che si chiamava Giorgio Martinelli, che era un critico, per leggere in anteprima quello che aveva scritto nelle nostre esibizioni. Era il giornale diretto da Spadolini, dove le firme erano Luca Goldoni, Biaggi, Zavoli, insomma tutti nomi prestigiosi e che poi nel tempo si sono andati affermando. Quali erano le pagine, diciamo, più attese? Ecco, vabbè, da un jazzista, evidentemente. Erano quelle della cronaca locale, evidente. Al giornale si guardava in quanto chi andava sul giornale, quello lì è andato sul giornale. Voleva dire che così era assurdo a una certa notorietà, non sempre per ragioni positive, non sempre per ragioni edificanti, però insomma, ecco, essere citato sul Resto del Carlino voleva dire, significava allora avere una visibilità totale. Essere citati dal Resto del Carlino la mattina dopo faceva sì che mia madre, diciamo, uscisse con una faccia diversa, vantandosi che suo figlio, insomma, in qualche modo era stato citato, e c'era magari una piccola fotografia della nostra jazz band. Ricordo che il primo ritaglietto di 4 righe che riguardava il mio debutto cinematografico nel 12 settembre del 1968 apparve su Carlino, e questo fece sì che il direttore della Cassa di Risparmio di Bologna, dove avevo un affidamento di 800.000 lire, provvedesse immediatamente a mandarmi una raccomandata chiedendomi di rientrare immediatamente. Tale era la fiducia che si aveva nel cinema allora, no? Per farle capire come però incidesse, insomma, un giornale nella vita, nel quotidiano di una città. E quando appunto lei diventò molto famoso nel cinema, il Carlino l'ha mai... Carlino mi ha sempre accompagnato, mi è sempre stato accanto. Io tra l'altro ho anche collaborato al giornale durante la direzione di Tino Nairotti, per diversi anni scrivevo, insomma, racconti che riguardavano più che altro la mia giovinezza, la mia adolescenza in quella città, e ribadendo comunque continuamente questo mio amore per quella città dalla quale io sono allontanato ormai da 40 anni vivendo a Roma, ma che, insomma, mia sorella tutte le mattine mi telefona ancora oggi e mi dice sul giornale, non dicendo il Carlino, dicendo oggi sul giornale parlano di Teo. È ancora considerato per molti bolognesi, insomma, il punto di riferimento a cui guardare, a cui fare riferimento, insomma. Il Carlino era il giornale di tutti, cioè non lo si poteva evitare, era un giornale che non divideva, ma che univa la città in quanto era testimone attento di tutto quello, ed esclusivo di tutto quello che accadeva. Il giornale lo si andava a comprare, e questo era un rito. In stazione dopo mezzanotte si andava a comprare il Carlino e ci si fermava a mangiare le lasagne, perché Bologna allora disponeva, la stazione centrale di Bologna disponeva di un ristorante dove dicevano che si facessero le migliori lasagne di Bologna. Allora si comprava il Carlino allo stadio e si mangiava le lasagne. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @radio24.it. Vi ricordo anche che potete riascoltare questa puntata sul nostro sito www.radio24.it. Una buona giornata e un buon weekend a tutti da Elisabetta Fiorito.